come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:35 minuti in questo momento, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde per le telefonate 800 24 00 24, il numero per i messaggi sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it per le vostre mail, titoli del TG2. Due francesi residenti in Belgio ed arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono accusati di essere i capi europei di Al-Qaeda, progettavano un attentato a Parigi. Berlusconi interviene sulle polemiche per il respingimento dei clandestini e dice: sui barconi ci sono persone reclutate dal crimine. L'ONU chiede di riammettere i respinti. Il Papa chiede che Gerusalemme diventi la città della pace. Benedetto XVI nei luoghi sacri ad islamici e ebrei visita la moschea di Omar e prega al muro del pianto. I bolognesi sono i cittadini più multati d'Italia, sotto le due torri ogni vigile emette quasi 1250 sanzioni, più buoni vigili urbani di Catanzaro non arrivano a 174 multe ogni anno. Allora, c'è da dire che l'opposizione ha spostato in pieno la linea dell'ONU, come avete sentito, sulla questione degli immigrati e dei respingimenti. Basta vedere oggi la prima pagina dell'Unità, in cui c'è un reticolato stile campi di prigionia con sullo sfondo la cartina dell'Italia, la condanna, l'Europa accusa, gli immigrati fuggono dalle persecuzioni, stop alle deportazioni, fini contro il Premier, garantire il diritto d'asilo, Franceschini, barconi usati come spot, dunque dopo la deportazione la condanna, così viene interpretata sostanzialmente dall'opposizione, da una parte consistente dell'opposizione, la politica del governo italiano nei confronti dell'immigrazione. Andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto. Programmavano di attaccare l'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Due musulmani arrestati a Bari fanno parte di una cellula legata ad Al-Qaeda. Già detenuti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, dal carcere continuavano ad arruolare terroristi per la Guerra Santa. Nelle intercettazioni si vantavano: abbiamo la superbomba. Il Papa rende omaggio a Gerusalemme, città delle tre religioni monoteiste. Tra queste mura, ha ricordato Benedetto XVI, non può esserci discriminazione. Poi, durante la messa celebrata nella valle di Giosafat, ha promesso ai cristiani di Terra Santa: il Papa non vi dimentica. Cresce la polemica sui barconi respinti. Quei viaggi sono organizzati da criminali, denuncia Berlusconi. Interviene l'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU, che scrive al governo: riammettete i migranti. Ma l'Europa bacchetta il commissario che aveva criticato l'Italia. Afghanistan, quasi 150 studentesse avvelenate a scuola in due giorni. Le ragazzine terrorizzate sono state ricoverate in ospedale. Bene, avevano questi titoli principali di Studio Aperto, come avete sentito, 800 24 00 24. Matteo Salvini, il contestato deputato della Lega, che ha parlato nei giorni scorsi di vagoni riservati ai milanesi, avete sentito, eccetera, spiega, o almeno tenta di spiegare, il senso di queste sue affermazioni. Lo fa oggi, risentiamolo. Proposta concreta è qualcosa che accade già nel mondo, da Tokyo a Città del Messico, ovvero sia di tutelare le donne che viaggiano, italiane o straniere, belle o brutte, velate o non velate, milaniste o interiste, per evitare palpeggiamenti, aggressioni, violenze e molestie. Ci sono dei vagoni riservati, il primo vagone, la prima carrozza di ogni convoglio della metropolitana, ma è una cosa che propongono anche molti stessi autisti dei tram e delle metropolitane. Questa è la proposta concreta, può essere giusta, può non essere giusta, ma penso che sia utile discuterne, visto che un problema di sicurezza sui mezzi pubblici a Milano c'è. Tutto il resto si è montato su un fatto che, autoironicamente, da milanese ho detto, ovvero sia: spero fra 20 anni di non dover essere costretto a riservare un posto agli italiani sugli autobus, visti i flussi migratori a cui stiamo assistendo. Punto. A capo. Questo è quello che dice Salvini adesso. Il senso di quell'affermazione era molto diverso, e comunque è anche discutibile il fatto che si possano creare dei vagoni contro i palpeggiamenti. 800 24 00 24, c'è una cosa che aveva notato giustamente il ministro Calderoli qualche giorno fa, e cioè chi adesso, come l'ONU, dice bisogna accogliere queste persone eccetera e non rimandarle in Libia, aveva però tollerato, anzi in realtà consentito, che la Libia diventasse fino a qualche anno fa, presidente della Commissione sui diritti umani dello stesso ONU, la Libia, che adesso viene additata come naturalmente un paese dittatoriale dove ci sono dei lager, dove queste persone vengono uccise, era fino a qualche tempo fa presidente della Commissione dei diritti umani dell'ONU. Calderon. Una notizia molto curiosa, perché fino al 2006 il presidente di turno della Commissione per i diritti dell'uomo dell'ONU era la Libia. E allora si lamentano perché noi li abbiamo restituiti a quello che era il presidente della Commissione dei diritti europei. Commissione dei diritti europei no, Commissione dei diritti dell'ONU, comunque il senso è questo. E se Salvini ha torto, secondo me in questo caso Calderoli, seppur la cosa è naturalmente polemica e un po' propagandistica, però ha ragione naturalmente in fondo. E dove andiamo a parare? Andiamo a parare su un altro argomento, che è quello incredibile della vicenda dell'Expo di Milano, Expo 2015, perché l'amministratore delegato della società di gestione, che si chiama Lucio Stanca, ed è un ex ministro del governo Berlusconi, ministro dell'innovazione, quello che si inventò il portale italia.it, è finita come sappiamo, Stanca si è insediato da qualche giorno, da qualche settimana, anzi dopo un anno di peripezie, di guerre interne al centrodestra per la composizione e per le poltrone di questo comitato di gestione dell'evento. Ebbene, cosa è accaduto? È accaduto che Stanca protesta e si vuole addirittura dimettere per la sede dell'Expo Milano, cioè per la sede del comitato di gestione. E cosa accade? Che da una parte c'è l'offerta della provincia di un palazzo gratis, però a Quarto Giaro, un po' distante dal centro, ma insomma non è la fine del mondo. Stanca invece vuole una sede al centro, a Palazzo Reale, con un affitto all'anno di oltre 1 milione di euro. Sentitelo. Quello cui ho pregato il consiglio di amministrazione comunque è di arrivare il più presto possibile a dare una sede alla società, perché senza sede non si può lavorare. Io ho dei collaboratori che sto per assumere che non hanno una scrivania. Oh, poverini questi collaboratori che Stanca sta per assumere che non hanno una scrivania, con tutte le sedi disseminate un po' ovunque che ha il comune di Milano, la provincia, tutti gli enti pubblici, non si troveranno le scrivanie per i collaboratori di Stanca. Ora va bene tutto, va bene che probabilmente l'Expo 2015 deve avere una sede, forse, dico io, non sono nemmeno sicuro, al centro di Milano per questioni di rappresentanza eccetera, è forse un po' snobistico dire che a Quarto Giaro non ci voglio andare perché è lontano. Però il fatto che i collaboratori di Stanca non abbiano una scrivania dove sedersi, francamente, mi sembra una scusa un po' senza senso. 800 24 00 24. La questione Mentana è tornata ad attualità perché in un'intervista a Vanity Fair, che anticipa un capitolo, c'è l'anticipazione del libro edito da Rizzoli che uscirà il 13 maggio e che ha come titolo Passionaccia. Mentana offre un inedito, che è una lettera mai resa nota, scritta a Fedele Confalonieri la notte tra il 21 e il 22 aprile del 2008, dopo una cena con i vertici di Mediaset e tutti i suoi direttori giornalistici a una settimana dal trionfo elettorale di Berlusconi. La lettera recita in questo modo: la nostra cena si è conclusa da poche ore, le dico francamente che è stato un errore invitarmi, mi sono sentito davvero fuori posto, c'era tutta la prima linea dell'informazione ma non ho sentito parlare di giornalismo neanche per un minuto, sembrava una cena da Thanksgiving, un giorno del ringraziamento elettorale, tutti attorno a me avevano votato allo stesso modo e ognuno sapeva che anche gli altri lo avevano fatto, era scontato, così come il fatto di complimentarsi a vicenda per il contributo dato a questo buon fine. Non mi sento più di casa in un gruppo che sembra un comitato elettorale, dove tutti ormai la pensano allo stesso modo e del resto sono stati messi al loro posto proprio per questo. Mi aiuti a uscire, presidente. Lo farò in punta di piedi. Insomma, un gruppo, secondo Mentana, Mediaset, che sarebbe diventato negli ultimi tempi un comitato elettorale. Non è che io sono arrivato ieri a Mediaset, su Canale 5. Ho un qualche ruolo nell'informazione di Canale 5 da 18 anni e so che tutte le altre volte non ci si è comportati così. Mediaset mi ha licenziato e quindi sono a casa. Ho detto che non esiste solo l'audience. Simili scelte tolgono credibilità a chi le compie. Se era un problema ospitare Di Pietro, non è che si può fare diversamente, non è che c'è qualcuno che nel teatro della democrazia non ha il diritto a comprare il biglietto, no? Continua dunque la guerra, che è anche una guerra adesso che si è spostata sui tribunali, perché addirittura Mentana vuole essere reintegrato, anche se poi Mediaset lo potrà risolvere il suo contratto. Un minuto dopo continua, ripeto, la querelle tra Mentana e il gruppo Mediaset. Mentana ne fa evidentemente una questione che riguarda il paese, la libertà di stampa, la libertà di informazione, dicendo che Mediaset è diventato un comitato elettorale, il gruppo è diventato un comitato elettorale. Commentiamo alcuni fatti del giorno con Filippo Facci, che saluto e ringrazio. Buonasera. Buonasera a tutti. Eccoci qua. Allora, la prima cosa è questa. Io ho una certa difficoltà ogni volta a pronunciare la parola ONU, perché non so mai a cosa si riferisca. Chi parla per conto dell'ONU? Qualche volta lo fa il segretario generale, qualche volta le diverse organizzazioni, e sono innumerevoli, sparse in tutto il pianeta, sedi in Italia, sedi un po' ovunque, ogni tanto si alza un rappresentante che magari poi viene smentito da un altro. Tant'è, i titoli per esempio dei giornali online in questo momento dicono: l'ONU critica ancora l'Italia per la questione dei respingimenti. Sono critiche fondate secondo Filippo Facci? Beh, la vedo dura, Cruciani, perché se lei non capisce bene l'ONU a nome di che cosa parli, io non capisco moltissime altre cose, perché l'ONU vista così è la maniera, come posso dire, più diversificata di mostrare quante organizzazioni in seno all'ONU stessa non abbiano ormai nessun potere di fare nulla, perché ogni tanto si apprende appunto l'esistenza di un nuovo organismo, di una nuova sigla che fa la voce grossa, in questo caso con lo Stato italiano, sulla base di una polemica che, confesso, a me è in parte del tutto incomprensibile. Non riesco assolutamente a capire benissimo di che cosa si parli, perché la sostanza, se capisco bene, è che c'è un'immigrazione clandestina dalle coste dell'Africa, come c'è da molti anni, sì. E d'un tratto, partendo dal principio che chiunque possa fare domanda di asilo politico, come la fanno il 75% di coloro che vengono dalle coste africane, ci si è accorti che, accidenti, ma costoro potrebbero essere persone davvero che abbiano bisogno di ottenere un asilo politico, e quindi secondo questo organismo bisognerebbe praticamente accogliere tutti quanti. Io ho capito questo. No, ma è quello che ho capito anch'io, ed è evidente che non può essere, che non può essere. Non può essere così. Perché sono dei dati, cioè il 75% di coloro che sono giunti in Italia via mare ha fatto richiesta di asilo, e il 70% delle 31.000 persone che ha domande di asilo, chiedo scusa, nel 2008 in Italia provenivano appunto da persone sbarcate sulle coste dell'Africa. Questo cosa vuol dire? Questo significa che praticamente o tutta l'Africa è una specie di lager, per cui di colpo tutti scappano da condizioni politiche incredibili, per cui sono dei perseguitati, quando la verità è un'altra. La verità è che sono persone che hanno fame, sì. Oppure insomma ci vogliono raccontare una storia diversa, perché tra l'altro c'è anche da dire che sarebbe anche ora di chiedersi, ed è quello che scrivevo sul giornale di oggi, come posso dire provocatoriamente, ma fino a un certo punto, se, come posso dire, la distinzione tra una persona che sta scappando perché è perseguitata politicamente o perché sta morendo di fame non sia, come posso dire, una struseria occidentale agli occhi di queste persone che scappano comunque per un bisogno. Quindi sì, il problema è comunque irrisolto. No, perché noi facciamo delle distinzioni appunto tra rifugiati politici, profughi, gente che scappa per altri motivi, in realtà insomma... è difficile poi fare queste distinzioni. Ci sono queste i rifugiati, l'asilo politico, i rifugiati politici, poi ci sono i profughi che sono un caso del tutto italiano, però ecco, io credo che una persona che scappi da una nazione africana perché abbia il problema insomma della persecuzione politica scappi fondamentalmente in un'altra nazione africana, perché oggi rappresenta, alla luce della situazione, un rischio molto maggiore cercare di mettersi nelle mani di quei criminali che sono gli scafisti. Gli scafisti, ricordiamo, sono quelle persone che, come rivelava il Corriere, ultimamente sbarcano i fuggiaschi sulle piattaforme dell'ENI fingendo che sia l'Italia in modo da liberarsene. E insomma, credo che non sia un problema che insomma non si possa mettere nei termini in cui la stanno mettendo questa organizzazione dell'ONU. Allora, un'altra cosa riguarda, ed è una cosa di strettissima attualità, lo posso chiedere a Filippo Facci perché so che parla sinceramente e non ha problemi, pur essendo un giornalista che lavora a Mediaset, perché sta per uscire, lo rilanciano le agenzie di stampa e anche i siti internet, un libro di Mentana dal titolo Passionaccia, e Mentana sostanzialmente trasforma una vicenda tra lui e l'azienda in un fatto che riguarda, secondo lui, anche la libertà d'espressione, la libertà di esprimersi in questo paese, eccetera eccetera, e parla di Mediaset come un gruppo che negli ultimi anni, nell'ultimo periodo soprattutto, si sarebbe trasformato, secondo lui, in un comitato elettorale. Cita un inedito, anzi rivela un inedito, questa lettera che avrebbe scritto a Confalonieri dopo una cena successivamente alle elezioni del 2008 con i vertici giornalistici Mediaset, in cui si sarebbe brindato, tra virgolette, la vittoria elettorale di Berlusconi. Ora però a me colpisce questa parola: un gruppo che è diventato, che è un comitato elettorale. La domanda che voglio farti è questa: frequenti il gruppo Mediaset? Hai l'impressione che sia così? Allora, premetto che conosco il libro in questione da 2 settimane, perché Mentana me lo inviò, e perché io ho solidarizzato con lui a partire dalla sera in cui non andò in onda la sua ultima puntata di Matrix, Caso Englaro, alla quale io dovevo partecipare. Sì. Io, mettiamola così, non è che sia falso quello che sostiene Mentana nel riferire che nell'ambiente di Mediaset ci sia un clima, come dire, politico da brindisi alla vittoria di Berlusconi e comunque predisposto alla vittoria di Berlusconi. Mi sembra solo una questione di dare un nome o un altro a un qualcosa che in qualsiasi caso, ecco, questo lo dico a Mentana, messo così, non può certo pensare che sia nato di recente. È un qualcosa che c'è sempre, non dico sempre stato, può darsi che ci sia ora più che qualche anno fa, però sicuramente c'è sempre stato. E quindi io posso condividere di più altre considerazioni di Mentana su come possa essere evoluta o meno l'informazione in Mediaset, però ecco, sul gruppo che è diventato comitato elettorale, tu dici non è una novità. Il comitato elettorale è cominciato nel 1994 con una riunione ad Arcole dove partecipò anche lui, e dove dopodiché appunto ci fu, ma è sempre questo, è sempre caricato sulla capacità, sull'indipendenza e sulle responsabilità dei singoli, ci fu chi poi, lavorando a Mediaset, ritenne di dover essere sdraiato o non sdraiato sulle posizioni appunto di Silvio Berlusconi, ma questo attiene sempre alle capacità del Però Mentana fa capire che questa possibilità non c'è più, cioè di non essere sdraiato sulle posizioni del capo, ecco, questo dice Mentana. Allora, sostanzialmente io devo anche stare attento come parlo, sinceramente, visto che la Cassazione di recente ha stabilito che chi parla male dell'azienda per cui lavora può essere licenziato. Però sicuramente qualche cosa è cambiato. Sicuramente sono cambiate tantissime cose, però ecco, diciamo che il tipo di scelte che sono state fatte per quanto riguarda i vertici dell'informazione di Mediaset sono molto più attente alla condiscendenza nei confronti dei vertici dell'azienda stessa che non all'effettiva, secondo me, capacità di essere grandi uomini di informazione rispetto ai canoni classici. Un'ultima cosa su questo voglio chiederti: è un problema che riguarda solo Mentana e Mediaset, i dipendenti di Mediaset e Mentana, o è un problema che riguarda il paese? Perché io propendo per la prima cosa, non so perché. Che cosa esattamente? Cioè tutta questa discussione è qualcosa che riguarda l'intero paese, le dinamiche interne a Mediaset, il modo in cui vengono scelti i direttori delle testate giornalistiche, o un problema che, insomma, che riguarda? Sì, è chiaro che riguarda tutto il paese, nella misura in cui Mediaset è una parte ampia di un sistema che ha come contropotere, per esempio nel campo televisivo principalmente, la RAI, che a sua volta esiste e si regge come la corda all'impiccato grazie all'esistenza di Mediaset. Quindi credo che il problema esista, e credo che ci sia un problema complessivo di involuzione dell'informazione nel nostro paese, indipendentemente da Mediaset e indipendentemente da quanto l'informazione sta cambiando in generale in tutti i paesi, in tutto l'Occidente, perché insomma non è più completamente quello che era, e veramente la mistura tra show e informazione è qualcosa i cui confini si fa sempre più fatica a comprendere, ma in Italia più che altrove. Bene, grazie a Filippo Facci. Partiamo subito con i titoli dei telegiornali TG3. Lettera dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati. L'Italia riammetta quei migranti che hanno diritto alla protezione internazionale. Berlusconi, nessuna violazione dell'asilo politico, sui barconi c'è gente reclutata dalla criminalità, Maroni esegue gli accordi fatti da me. Il governo chiede 3 voti di fiducia sul pacchetto sicurezza, l'opposizione norme incostituzionali, svalutato il ruolo del Parlamento. Benedetto XVI alla spianata delle moschee, al muro del pianto, dialogo con l'Islam, amicizia con gli ebrei, superare i conflitti. La liberazione della giornalista Roxana Saberi, un passo avanti dell'Iran sulla strada della distensione con gli Stati Uniti. Potrebbero avere un premio in un permesso di soggiorno i 2 nigeriani che hanno bloccato uno squilibrato e aveva ridotto in fin di vita 2 pensionati. Il Festival di Cannes 2009 si prepara al via, ma la crisi si fa sentire quest'anno, meno feste e più film, dice a Sargento, chiamata in giuria. L'anno prossimo la Ferrari non si iscriverà al Mondiale di Formula 1, la decisione in opposizione al nuovo regolamento della FIA. Bene, secondo alcune notizie uscite oggi e pubblicate dal quotidiano Italia Oggi, l'Unione Europea avrebbe già respinto 150.000 migranti, questo dal 2005 al 2008, 150.000 respingimenti di immigrati clandestini grazie alle azioni di un'apposita agenzia europea. Cioè da 3 anni si fanno già operazioni di polizia comuni anti-immigrati mare e terra. La novità è che non c'era ancora un accordo e una cooperazione con la Libia. Questo tanto per capire alcune polemiche assurde montate in Italia. Andiamo a sentire i titoli di Sky. Sui barconi, gente scelta dai criminali, Berlusconi difende la linea Maroni. Ma l'ONU scrive al governo italiano e chiede a Roma di riammettere i respinti. Posta la fiducia al pacchetto sicurezza, da domani via al voto alla Camera. Appello del Papa è dalla spianata delle moschee, dialogo e rispetto con l'Islam. Il prezzo del petrolio torna a salire, toccati $60 a New York. Fuori dalla crisi, nella seconda metà del 2010, nuove stime dell'FMI. Volevano l'inferno a Parigi, scoperti a Bari 2 presunti membri di Al-Qaeda. La dea bendata vuole bene all'Aquila, gratta e vinci da 1000 euro a uno sfollato. Scontro in Formula 1, la Ferrari alza la voce, pronta al ritiro dal prossimo anno. Berlusconi striglia Ancelotti, Galliani ricuce, CDA Juve discute il dopo Ranieri. Bene, 19:20, 800 24 00 24. Tra l'altro le frasi che avete sentito adesso di Sky, di Berlusconi su Ancelotti, è un'altra questione. Naturalmente sono state riportate oggi solamente dal quotidiano La Repubblica e sono venute fuori durante una festa, alle feste, cui ha partecipato Berlusconi a Sharm el Sheikh, prima del vertice con Mubarak. A un certo punto Berlusconi è andato a Sharm e non ha resistito alla tentazione di andare a una mega festa organizzata al Coral Bay Beach. C'erano moltissimi italiani e domande su Ancelotti, e dice: abbiamo perso lo scudetto per colpa di Ancelotti. Poi naturalmente una grande opera di mediazione dopo queste uscite di Berlusconi. 800 24 00 24, vi riproponiamo alcune perle, le possiamo chiamare così, anche se c'è della sostanza, non solo show mediatici o follie televisive, ed è lo scontro a Tetris lo scorso venerdì nel programma sulla 7 condotto da Luca Telese tra Vittorio Sgarbi e Paolo Guzzanti. Qual è la premessa? La premessa è che si parlava di Veronica Alario, del divorzio, di Berlusconi, di questa cosa. A un certo punto Sgarbi dice che Guzzanti sostanzialmente è un po' come Veronica Alario, cioè un amante, in questo caso una moglie, fedele a Berlusconi, che a un certo punto si sente tradita e però sapeva tutto di quello che faceva il marito. Sentite Sgarbi. Tu ricorderai come si parte? La ragazza Guzzanti fa una tremenda caricatura della Carfagna dicendo cose orribili. Il padre, parlamentare di Forza Italia, eletto da Berlusconi, si trova nella contraddizione fra difendere il santo e difendere la figlia. Sceglie di difendere la figlia, esce da Forza Italia. Fa quello che ha fatto la Veronica Alario, che ha tollerato un Berlusconi capocomico, sapendo tutto di lui, compreso quando prese l'appartamento a una ragazza e con tutte le cose che non ci frega nulla. A un certo punto si è svegliata, perché c'è un limite alla pazienza. Ma non possiamo dire che non sapesse lei com'era Berlusconi, e cioè un ragazzo che si deve divertire e vive per divertirsi. E anche lui lo sapeva, Guzzanti, che è un buon liberale, ha scelto come me, come Colletti, come Vertone, ha scelto di fare l'intellettuale con Berlusconi. Poi a un certo punto, tra la figlia maltrattata e la figlia ha fatto delle cose che si possono discutere caricaturando la Carfagna, ha fatto una scelta, ma anche lui ci è arrivato tardi, no. Cioè lui è come Veronica Lario, tardamente si accorgono di quello che è Berlusconi. Beh, è strepitoso questo passaggio. A un certo punto, naturalmente, Guzzanti cerca di replicare: non è per questo che ho rotto con Berlusconi, eccetera, eccetera. Sentite ancora. Io non ho rotto con Berlusconi a causa della Carfagna e di Sabina. Le cose sono andate esattamente così. Ma delle veline in Parlamento, stessa cosa. Non mi devi, Vittorio, per favore, hai letto male, stai parlando male. Hai rotto perché le persone dalle veline e dalle carfagne. Tu l'hai no, tu allora, permetti che io... Ma perché hai rotto? Perché hai rotto? Ma ti vuoi stare... Se ti stai zitto... Sei storia per me. Se tu stai zitto... Vittorio, io sono la storia, ma tu la leggi male letto, la storia. Lo sanno tutti. Ma ti stai zitto un attimo e mi fai parlare. Altrimenti allora, perché stavi con Berlusconi? Perché ci stavi? Perché ti piaceva? Quando ho cominciato a nominare... Vittorio, basta! Fammi parlare, per Cristo! Tu mi hai tirato in ballo! Hai tirato in ballo la mia famiglia! Ma che famiglia? Ho raccontato mia figlia! Vuoi stare zitto e farmi parlare? Hai difeso tua figlia! Io non ho difeso mia figlia! No, tu menti! Neanche sapendo di mentire! Tu menti istintivamente! Va bene, neanche sapendo di mentire! Racconta la tua verità, la tua, perché ho letto tutto! Beh, a un certo punto la cosa sembra, dopo un momento avete sentito, di grandissima tensione, tornata sui binari, come dire, del colloquio normale, della pseudo ragionevolezza, però poi c'è la rottura definitiva, finale, sentite. Allora, io ho rotto con Berlusconi perché Berlusconi ha applaudito il criminale internazionale Vladimir Putin quando lui ha invaso la Georgia. Ma quale per palle fortuna che ho una giuria era a casa di Berlusconi era Vladimir Putin non lussuria. Beh, insomma, è un momento altissimo, perché al di là poi dello spettacolo che inevitabilmente c'è in queste occasioni, con le Terese che cercava a un certo punto di dire alla giuria basta, abbiamo superato il limite, sotto sotto c'era un sorrisino di compiacimento per questo litigio, naturalmente, come è normale che sia. Insomma, al di là poi del litigio, c'è poi la sostanza, perché cosa diceva Sgarbi? Non è che questa questione di Putin sia venuta fuori un anno fa, quando comunque Guzzanti è stato rieletto con Berlusconi nel PDL, eccetera, è cosa vecchia, insomma. Per cui se poteva rompere prima, questo intendeva dire Sgarbi, naturalmente a modo suo. 800 24 00 24, vogliamo farvi notare, l'abbiamo già fatto con Italo Bocchino, che è esponente del PDL, un'altra grandissima contraddizione in questa vicenda del referendum, che viene utilizzata naturalmente da ogni esponente politico, da ogni partito, a seconda delle convenienze elettorali del momento. Antonio Di Pietro, pensavo di non parlarne più, però insomma l'attualità mi porta a parlare di questa vicenda, perché insomma Di Pietro nel 2007 raccoglieva insieme a Gianfranco Fini e insieme ad altri le firme per il referendum, abrogativo della legge elettorale, dunque sostanzialmente di parti della legge elettorale, a favore del sì, insomma della semplificazione del quadro politico. Lo sentirete, io vado anche contro i miei interessi. Chi fa politica deve farlo negli interessi degli altri, non soltanto per costruire partiti e partitini di interdizione per impedire al Paese di poter progredire. Per questo noi dell'Italia dei Valori che siamo un partito piccolo, mettiamo noi stessi in discussione. Si è moltiplicato a dismisura il numero di coloro che rappresentano il ceto politico. Vabbè, insomma, avete sentito, adesso c'è la voce di Fini, raccoglie le firme insieme a Fini. Ieri dice: io voterò no, perché se dovesse passare il sì, tutto il potere arriva nelle mani di Berlusconi. E noi che l'abbiamo promosso quel referendum abbiamo il coraggio oggi di dire ai cittadini di votare no. Se veramente Franceschini vuoi fermare Berlusconi, ripensa a quel tuo sì che consegna a Berlusconi tutta l'Italia, consegna a Berlusconi tutte le istituzioni. E non è l'unico caso di voltagabbanismo, chiamiamolo così, sulla questione del referendum, come abbiamo già notato. Massimo dalla Spezia, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera agli ascoltatori. Io esprimo un'opinione sul problema dei migranti, dei barconi. Io dichiaro che sono per l'accoglienza e sono contro il respingimento, però non sono neanche, voglio dire, un talebano di questa idea, mi rendo conto che ci sono dei argomenti anche a favore del respingimento. Quello che volevo esprimere è che magari questa azione qua di farla magari con un po' di vergogna, con un po' di dolore anche, perché questa gente che come Caronte rimandiamo indietro sulle sponde della Libia, che vivranno tra il deserto e il mare, a cui togliamo anche la speranza di avere qualche cosa, nessuno li riporta nei paesi di origine, quindi in maniera così un po' spannometrica direi che rimarranno più o meno in Libia, forse dopo qualche, senza soldi, perché non avranno neanche più soldi, perché l'hanno già dati a quelli che vanno a trasportarli, per cui ecco. Però mi scusi Massimo, io resto della mia idea di questi giorni, nonostante le diverse telefonate che abbiamo ricevuto, le mail e anche diverse osservazioni che sono state fatte qui in questa sede da Piero Sansonetti, per esempio, direttore da oggi di un quotidiano che si chiama L'Altro, cioè che i respingimenti sono necessari per bloccare il traffico di merce umana, di carne umana. Senza i respingimenti non si pone fine a questo traffico e senza una linea dura da questo punto di vista. Prima di andare di nuovo con gli ascoltatori che sono sempre il centro del nostro programma, ancora allo show di Sgarbi e Guzzanti, nello stesso tempo a Tetris la settimana scorsa, in cui Sgarbi fa una sorta di ritratto strepitoso del Cavaliere. Berlusconi è palese dalla prima ora. È un santo della televisione e allora il papà della Letizia glielo porta, ma non lo porta al mostro, lo porta uno che è più utile di un coetaneo coglione che nulla le potrebbe dare. Come qualunque una madre accusa. Porta i figli a fare le gare e andare in televisione. Editor. Chiudo, ma io ho scoperto, Scarpi. Chiudo, ho scoperto la mitica Eleonore perché la stava portando la sua agente, aveva 20 anni, bellissima ragazza, a fare un provino in qualche cretinata di trasmissione. È umano, non dico che vada bene, benissimo le studiose che si sacrificano, ma che una ragazza speri. Dove viene il miracolo? Vado non da Padre Pio, vado a Casoria dove c'è il santuario di Berlusconi, porto la figlia e diventa quello che è diventato. Tutti i giornali ne parlano e questo è Andy Warhol, caro Rondolino, è un quarto d'ora di celebrità, questo è, e non c'è niente di male, questa è la televisione. Beh, insomma, è strepitoso. Non porto, cerco il miracolo, non porto mia figlia da Padre Pio, la porto a Casoria dove c'è Berlusconi. Roba indimenticabile. Massimo dalla Spezia, allora, stavamo parlando di cose... Si può rivedere questa puntata da qualche parte che l'ho persa? Beh, su YouTube ci sono degli ampi stralci della puntata, poi anche sul sito della Sette, Tetris, può trovare tutto. Il clou è questo però, poi si ragiona di altro naturalmente, di cose molto serie. Il clou, diciamo, da un punto di vista di spettacolo e in parte anche di sostanza è questo. Per tornare a quello quando siamo interrotti, io so quali sono le sue posizioni, perché insomma la sento spesso, magari da volte la sento a telegiornale per seguire la Zanzara che è più sanguigna, però perlomeno volevo vedere se era possibile concordare su un aspetto, cioè che questa azione le facciamole pure, però magari esprimendo anche il ricrescimento, magari anche il dolore per azioni di questo tipo, perché non è una cosa completamente indolore questa azione. No, per ma nessuno, nessuno sì. No, certo, nessuno dice che non siano cose dolorose. D'altra parte fa notizia solo adesso, ma come si apprende da qualche ora, In realtà operazioni di questo tipo, non con la Libia, questa è la novità è la Libia, diciamo, operazioni di questo tipo più o meno se ne fanno, cioè di respingimenti, di rimpatri, anche magari in posti non particolarmente democratici, si fanno ormai da 2-3 anni e ci sono delle cifre, 150.000 rimpatri, poi ci sono anche domande di asilo accolte, non è che ci sono solo rimpatri. No, ma vedi, l'aspetto che è un po' più particolare della nostra vicenda, solitamente italiana naturalmente, è l'enfasi con cui viene pubblicizzata questa cosa, no? Cioè, mi viene in mente la pubblicità, non so se la ricorda, ti piace vincere facile? Ecco, per con i migranti noi siamo fortissimi. E allora dai, diamo la stura pure a questo orgoglio di aver mandato indietro la gente. Ecco, è questo che almeno. No, ma bisogna sempre evitare i trionfalismi. Esatto. E la politica vive di queste cose, di propaganda, di vende il suo prodotto, ma queste cose sono normali, accadono in tutto il mondo, magari in Italia con un tasso di propaganda maggiore, ma d'accordo, però cioè, il punto non è questo, Massimo. Al netto della propaganda che viene fatta su questo e dello sfruttamento elettorale della vicenda, che c'è e non c'è dubbio che ci sia, si segnala una novità. La novità è quella che nei confronti della Libia e in generale nei confronti della questione degli immigrati si fa valere una questione fondamentale, che è quella dei confini, abbiamo dei confini e questi confini in qualche modo vanno difesi anche da cose di questo tipo. Ora, sarà un principio che può sembrare cinico rispetto a quello che lei dice, però è così, da che mondo è mondo, ogni Stato difende le proprie frontiere. Antonio da Trieste che si trova proprio su una frontiera. Buonasera. Detto tutti i vostri discorsi, non voglio entrare in quelle discorsi qua dal punto di vista di dire come pensare. Cerco semplicemente di parlare un po' come penso che sia la pancia, quantomeno degli elettori del centrodestra. I respingimenti, secondo me, il motivo per il quale Berlusconi, tra l'altro io sono un elettore del centrodestra, per cui lo dico chiaramente, no? Berlusconi fa questo tipo di discorso semplicemente perché aveva in mano qualche sondaggio che gli dice che se no la Lega gli porta via il 10% dei voti, no? Lo stesso discorso vale per Fassino e per il PD. Franceschini dice una cosa e il Fassino dice un'altra, ma è il gioco delle parti. Sì, però scusi, stanno. Antonio, ridurre però tutta la politica. Ripeto, questi discorsi che riguardano i ritorni elettorali ci sono certamente, però ridurre tutta la politica ad una questione, prima di dire una cosa, guardo il sondaggio oppure cerco di capire. Io la penso così, poi magari sarò clamorosamente. No, ma sentito, per carità, io non dico che non ci sia questo aspetto. Anche perché per un motivo molto semplice, guardi. Gli immigrati che vengono qui a chi fanno concorrenza? Fondamentalmente agli operai. Gli operai per chi votavano? Votavano, noti, 59% degli ultimi sondaggi votano per il centrodestra, votavano per il PD, no? Perché il PD allora fa questo genere di doppio binario classico comunque di quelli di sinistra, no? Che hanno sempre fatto questa, ha debito gli atti. Perché fanno questo? Perché hanno paura di perdere ulteriormente voti, per cui non vogliono dire che vogliono mandare via gli immigrati, ma contemporaneamente dicono ma sì, si potrebbe però mandarli via, perché spero che la gente che li vota sia così ottusa, e io non penso che gli elettori siano ottusi. Vabbè, adesso pure lei sta facendo un po' di propaganda. No, sto facendo un ragionamento generale. Sta dando contro così, bastonate su bastonate. Non sto dando dentro contro nessuno, sto facendo un ragionamento nel quale dico semplicemente il punto fondamentale secondo me, che in generale su queste cose ha capito Berlusconi, che per esempio il PD non ha ancora capito, è che il PD o la sinistra cerca di educare gli elettori a fargli fare quello che vogliono loro. Berlusconi invece, il discorso dei sondaggi, ha capito che deve fare lui quello che diciamo noi, perché altrimenti perde le elezioni, e questa è la differenza. Il PD non l'ha capito ed è in queste condizioni. Il centrodestra l'ha capito ed è in condizioni diverse. Capisci qual è il ragionamento? No, ma guardi, su questo sono d'accordo con lei, la ringrazio. Carlo, provincia di Varese, buonasera. Buonasera. Ero già entrato in casa dove ho spento la radio, ho perso gli ultimi 20 minuti. Non si preoccupi. Volevo fare un intervento, però visto, ho sentito adesso, ero collegato con il cellulare, ho sentito altre cose con la Di Pietro. Dica. Se era possibile facevo un intervento su questo. Quello che vuole. No, beh, in casa sua ci mancherebbe altro. Visto No, quello che vuole, Carlo, qui non diamo indicazione a nessuno. Perfetto. Niente, ma è perché ho sentito, vabbè, permetto, io sono l'elettore di Di Pietro, il fatto del voto a Gavana, sono andato lì perché io vedo il cambiamento di posizione di Di Pietro sul referendum, E si può ricollegare anche a quello che avete detto prima su Mentana, che c'è questa... Cioè sono cambiate le condizioni politiche. Sono cambiate da tantissimo. In effetti io non so se c'è un regime o no su questa cosa qua, su Vato Berlusconi ormai in perdita su tutti i canali e non c'è mai un contraddittorio. Sta di fatto che è cambiato veramente prima la lista di Di Pietro, ma come altre liste si potevano fondere un partito molto più grosso per comunque contrastare perché adesso non lo possono fare, mi scusi. E no, perché comunque il partito egemone della sinistra è il Partito Democratico, che la pensa in maniera diversa di come la pensa molta gente di sinistra. O non no, di sinistra, Carlo, però io non ho capito nulla. Il problema è molto semplice. Io che cosa ho evidenziato? Il fatto che non solo Di Pietro, ma diverse persone che nel 2007, nel 2008 anche, hanno sostenuto i referendum elettorali e dunque hanno raccolto delle firme in alcuni casi, e hanno deciso dunque di votare sì per l'abrogazione di alcune parti di questa legge elettorale, oggi dicono no, perché se poi passa il sì, si fanno le elezioni, Berlusconi si prende tutto senza nemmeno la Lega. Io trovo che sia un ragionamento assurdo, soprattutto da parte di chi è un ragionamento legittimo, per carità, ma è un ragionamento assurdo, perché una legge elettorale dovrebbe essere considerata più nel lungo periodo che non nel breve periodo. I consensi vanno e vengono. E due, mi sembra un ragionamento assolutamente contraddittorio rispetto a persone che addirittura hanno raccolto delle firme. Cioè mi sembra la classica dimostrazione, ma già l'avevamo detto con Italo Bocchino, uno di quelli esponente molto noto del PDL, uno di quelli che ogni sera fa le dichiarazioni in televisione, già lo avevamo notato con Bocchino. Adesso siamo tornati con Di Pietro, semplicemente perché è clamoroso il fatto che persone che hanno raccolto delle firme oggi per motivi, i soliti motivi, la paura del regime, Berlusconi che vince, prenderebbe tutto, tutte cose ipotetiche, se vogliamo anche contestabili, dicono che non bisogna, bisogna boicottare il referendum, votare no. Cioè, io lo trovo una contraddizione clamorosa. Cioè, è vero che dal 2007, dal 2008 le condizioni politiche sono cambiate, ma se per questo possono cambiare anche fra 3-4 mesi, non lo sappiamo. Questo è il punto. Carlo, la ringrazio. Abbiamo diversi ascoltatori, prima però il professor Luca Ricolfi, che ringrazio, buonasera. Buonasera. Che è editorialista della Stampa, dirige la rivista Polena ed è membro dell'Osservatorio del Nord-Est presso l'Università di Scienze Sociali, presso la Facoltà di Scienze Sociali dell'Università di Torino. Allora, Ricolfi, io trovo che ci sia una contraddizione, per carità, anche all'interno del centrodestra ce ne sono, non è che non ce ne sono su questo tema. Però a un certo punto decide Berlusconi sulla questione del rimpatrio, per esempio, decide Berlusconi, punto. Con l'appoggio, mi sembra, però, di gran parte poi degli esponenti del centrodestra, sì, c'è qualche cosa che dice Fini, però più o meno la linea è quella. Leggo oggi l'Unità, il titolo: la condanna, l'Europa accusa, gli immigrati fuggono dalle persecuzioni, stop alle deportazioni. Ieri c'era un titolo, o l'altro ieri, non ricordo, deportati. Ora, uno degli esponenti, i principali esponenti del Partito Democratico, Fassino, proprio qui a Radio 24, durante una trasmissione condotta da Giuliano Ferrara, ha detto, insomma, a me non mi pare uno scandalo questa politica dei respingimenti. Insomma, qual è la linea del Partito Democratico su questo? Lo chiede a me? Sì, secondo lei l'ha capita? Insomma, questa è la domanda. Guardi, io posso confessarle una cosa. Sì. Quando sento queste prese di posizioni che dicono delle cose tremende, i deportati, le leggi razziali, eccetera, penso semplicemente che questi signori vivono ancora sulla Luna, non si sono resi conto di come il mondo è cambiato, come le teste delle persone ragionano ormai per i fatti propri e non sono orientabili ideologicamente. Sai cosa mi viene in mente? Mi viene in mente quel film in cui a un certo punto Villaggio dice della corazzata Potemkin, una boiata pazzesca. Ecco, a me sembra che questi pensieri e queste prese di posizione dei dirigenti del PD siano semplicemente una boiata pazzesca e saranno seppelliti da una risata, perché continuano a dire delle cose completamente astratte, prive di senso comune, che non meriterebbero nemmeno di essere discusse. Se fossimo un paese in cui ognuno pensa con la propria testa e avessimo tutti il coraggio di dire quello che è sotto gli occhi di tutti, cioè che questi stanno semplicemente facendo della ideologia, stanno semplicemente cullando i propri astratti principi senza curarsi minimamente di quello che la gente pensa, ma soprattutto dei problemi che dobbiamo risolvere, perché questi problemi dell'immigrazione, dei CIE, dei CPT come si chiamavano una volta, del respingimento, eccetera, sono problemi concreti. se tu non sei d'accordo con le soluzioni del governo, e si possono avere tutte le riserve di questo certo. mondo sulle posizioni, ne devi proporre degli altri, non puoi appellarti a dei principi. E la gente, secondo me, l'ha capito, la ragione per cui la gente va dietro Berlusconi è che vede delle soluzioni discutibili, ma delle soluzioni, dei modi di affrontare i problemi. A sinistra non c'è una proposta alternativa, c'è semplicemente di continuare ad accogliere tutti senza opporre nessuna resistenza e quindi perpetuando una situazione di illegalità. Io la vedo molto semplicemente così, ma fra un anno, due anni vedrà Cruciani che rideremo delle posizioni del PD oggi, semplicemente questi sono in ritardo, si sveglieranno e sarà un brutto risveglio. Detto questo, poi secondo me bisogna questa politica poi continuarla, avere pazienza, non si può, perché molti ascoltatori dicono beh adesso il centrodestra fa la voce grossa eccetera perché siamo in scadenza elettorale. Io ieri contestavo questa cosa dicendo guardate che l'accordo con la Libia evidentemente è arrivato a un punto di maturazione, stiamo pagando un sacco di soldi, anche questa cosa può essere contestabile, però come scrive oggi giustamente anche Sergio Romano sul Corriere della Sera, sarà pure un po' brutto trattare con la Libia in questo modo, però è l'unica risorsa che in questo momento abbiamo per frenare il traffico di carne umana dall'Africa. Ma certo, c'è un principio molto semplice, che tra l'altro tutti gli studi sulla criminalità hanno supportato, cioè sì. che quello che conta se si vuole combattere un fenomeno è non è minacciare o enunciare dei principi, ma esercitare delle minacce credibili. Allora, queste azioni che sta facendo il governo in questo momento rendono improvvisamente per la prima volta credibile la faccia feroce che è stata tentata sì. tante volte. Allora, se uno non è d'accordo deve anche però rassegnarsi a dire bene, le illegalità, il traffico di migranti, questo entrare e uscire dai CPT eccetera, noi vanno benissimo, perché l'Italia deve essere aperta, che le leggi vengano rispettate non ci importa nulla, perché è più importante il principio che chiunque abbia desiderio di venire sul nostro territorio per motivi più o meno buoni, che sovente sono ottimi, deve poterlo fare. Allora, se uno pensa questo, però deve assumersene le responsabilità, non può dire la sicurezza sta a cuore anche a noi, però in un altro modo. Un altro modo vogliamo sapere qual è. Quale, certo. Ecco, perché secondo lei non c'è il coraggio fino in fondo? Perché anche nelle frasi di Fassino, poi l'altro giorno c'era sempre un ma, sì, bisogna sempre aggiungere che però poi uno è io sono contrario ad alcune cose che dice Maroni, sì, certo, è scontato. Perché hanno paura di essere accusati di tradimento dai loro. Quando uno sta 40 anni in un partito come il Partito Comunista, c'ha una testa fatta in un certo modo e la prima cosa che teme è il discredito dei propri compagni di partito, di cultura politica, eccetera, eccetera. Però questo dovrebbe essere una cosa superata, cioè nel nord, per esempio, moltissimi elettori, io credo di centrosinistra, vorrebbero sentirsi dire le cose che dicono. Le racconto una cosa, come editorialista a me capita questo, che quando scrivo un pezzo come questo, molte persone mi dicono, sono d'accordissimo ma non osavo nemmeno pensarlo, perché c'è una specie di autocensura ideologico-culturale nel popolo di sinistra, per cui, come diceva se non sbaglio nella vignetta di Altan, alle volte mi vengono delle idee che non condivido. La gente di sinistra è completamente subissata da idee che non condivide, un giorno comincerà a esprimerle. Lei nell'articolo di oggi sulla Stampa ha scritto anche un'altra cosa interessante che riguarda l'apertura verso gli stranieri, il sentimento di solidarietà che è proprio naturalmente di moltissime persone, per carità, però in particolare dei ceti medi riflessivi, diciamo così gli intellettuali, i quali soddisfatti i bisogni primari, come lo sono, come riescono a essere soddisfatti, perché si tratta di solito di classi agiate, si possono poi dedicare ad altre cose, chi ha un lavoro gratificante, un buon reddito, chi può permettersi di vivere nei quartieri migliori di una città, chi non deve combattere per un posto all'asilo o per una prenotazione in ospedale può coltivare più facilmente un sentimento di apertura. E qui la distanza da quello che poi sente la gente comune? Ma secondo me sì, purtroppo a me sembra che sia proprio così, cioè io vedo che le persone meno assalite dai dubbi sull'immigrazione, sì. Le persone, naturalmente parlo di persone tolleranti, aperte, eccetera, le meno assalite dei dubbi sono quelle che incontrano di meno il problema nella loro vita quotidiana, appunto perché vivono in certi quartieri, perché hanno un buon reddito, perché hanno privilegi, privilegi proprio nel senso che se tu devi mandare tuo figlio all'asilo trovi il modo di trovargli un posto, e se non c'è il posto nella scuola pubblica lo metti nella scuola privata. Cioè tutti i problemi concreti che hanno le persone non li sentono. C'è un bel controesempio di un intellettuale che ha avuto il coraggio di cambiare le sue posizioni, o meglio di renderle un po' più realistiche. Si chiama Italo Fontana, è uno psicanalista di Torino che ha scritto un libro bellissimo sulla sicurezza, Dondelli, che si chiama Non sulle mie scale. Sì. E questo è uno che ha vissuto per anni in un quartiere degradato di Torino, completamente invaso dagli immigrati, e questo racconta che cosa succede quando una persona che è di mente aperta si ritrova con le siringhe in ascensore, la cocaina per le scale, il morto nell'androne, perché gli immigrati hanno conquistato il suo quartiere, hanno conquistato il suo condominio, eccetera. Allora, alla maggior parte delle persone benestanti questa esperienza non succede. Loro dovrebbero chiedersi che cosa penserebbero se avessero quel problema lì. E questo signore è un bel esempio, perché invece è un intellettuale che quel problema l'ha avuto e racconta come cambia la propria testa quando il problema c'è e non è semplicemente un discorso astratto. Ecco, Italo Fontana non è un uomo dai cattivi sentimenti. No, è un uomo di sinistra, di sentimenti stupendi. Cioè, io non so se lei ha letto questo libro. Sì, sì, come no, certo. È un uomo di una generosità, raffinatezza, apertura. Però ci sono molti cattivi. Certo, ci sono molti cattivi sentimenti nei confronti degli immigrati. Ecco, una forza politica deve stare dietro anche questi cattivi sentimenti? Io penso che la forza politica deve contrastare i cattivi sentimenti, ma non colpevolizzare chi ne è portatore, avendo anche delle buone ragioni per alimentarli. Cioè la forza politica deve ascoltare e capire anche i cattivi sentimenti, perché quasi sempre i cattivi sentimenti hanno alle spalle qualcosa. Un problema certo, non quando, diciamo, facciamo un esempio concreto. L'operaio che sta in un quartiere degradato e ha dei problemi concreti con gli immigrati, quello devi capire. Il ragazzetto di periferia che va in giro a menare i neri o i negri, come li chiama in questi casi, quello non lo devi capire e devi avere un atteggiamento di contrasto, ma non puoi mettere tutti sullo stesso piano, come il mero fatto di avere dei problemi con gli immigrati fosse indice di razzismo. Bene, grazie al professor Ricolfi di essere stato con noi. 19:54, 800 24 00 24, Damiano, provincia di Venezia, buonasera. Sì, buonasera. Eccoci qua, dica. Sì, allora, volevo sempre intervenire sull'argomento della frase di Berlusconi, che diceva l'Italia non è detto che debba per forza essere multirazziale. E su questo secondo me è un punto importante, perché l'idea dell'Italia multirazziale francamente non è scritta da nessuna parte. Beh, ha detto multietnica in realtà, un'altra sì, cosa. Sì, multietnica. Comunque, diciamo, è un'idea un po' moderna degli ultimi anni che è scaturita da politici, dai media, però in realtà non sta scritto da nessuna parte che l'Italia deve diventare multietnica. No, cioè il volere un paese che abbia un suo gruppo, diciamo, forte, gli italiani o gli spagnoli, i francesi, non è un'idea solo di Berlusconi, e poi varie minoranze, eccetera. No, esatto, non è solo un'idea di Berlusconi, è in gran parte la realtà, lo scrive oggi bene Antonio Polito. Detto questo, poi secondo me Berlusconi non si rendeva nemmeno conto di quello che diceva in quel momento, perché poi in parte lo siamo, una società in cui convivono diverse etnie, no? Non è che siamo una società multietnica, siamo una società in cui convivono diverse etnie, però ce n'è una principale e poi diverse altre. Sì, e inoltre, fra l'altro, io credo che anche queste persone disagiate che arrivano in Italia, se nel loro paese la situazione fosse migliore, avrebbero loro stessi piacere a stare nel loro paese piuttosto che andarsene. Questo credo sia ovvio. Eccoci qua, Damiano, velocemente la conclusione, poi i titoli. Sì, ecco, la conclusione proprio molto semplice è che secondo me, visto che l'Unione Europea non ha aiutato in alcun modo l'Italia in tutti questi anni di problemi con gli immigrati, secondo me un po' era arrivato il momento che qualcuno ci pensasse, in questo caso è stato Maroni. L'accordo con la Libia dura ormai da un anno e mezzo, hanno chiesto le motovedette, eccetera, gli sono state date, ed ora secondo me è stato, è il momento effettivamente che qualcuno come Maroni ci abbia pensato e un po' si sia fermato questo flusso continuo che effettivamente non poteva. Ma guardi, è la stessa cosa che voleva fare in realtà il governo di centrosinistra, poi ci sono state difficoltà negli accordi con Gheddafi. Insomma, quello che sappiamo, il punto è questo, che ogni cosa viene trattata da noi in modo ideologico, basta sentire e vedere quello che sta scrivendo in questi giorni uno dei giornali pagati dal Partito Democratico, che è l'Unità, deportazione, condanna a morte delle persone, mentre si tratta di accordi che lo stesso centrosinistra voleva fare, cose incredibili, incredibili. Questo respingimento è una cosa che altri stati fanno da molti anni effettivamente. Sì. Un attimo solo, Damiano, la ringrazio. Titoli del TG5. Pace per la Terra Santa e l'umanità, appello del Papa a Gerusalemme, legame indissolubile con gli ebrei, ha detto Benedetto XVI, e dialogo con l'Islam per superare i conflitti. Dietro i barconi c'è la criminalità, dal vertice di Sharm el Sheikh Berlusconi difende l'operato del governo, polemica con l'ONU e l'asilo politico, fiducia alla Camera sul decreto sicurezza. Inchiodati a Bari dalle intercettazioni, in cella due leader di Al-Qaeda, progettavano attentati all'aeroporto di Parigi e in Inghilterra. Ferrari, nel 2010 non saremo nella Formula 1, è scontro con la FIA sui regolamenti, sotto accusa al tetto ai budget delle squadre. 16 agenti della stradale arrestati a Lecce con l'accusa di mancati controlli a imprenditori e commercianti in cambio di regali e danaro, denunciati da un collega. Dopo la medaglia d'oro al valor civile, donata una casa alla famiglia del bosniaco che a Jesolo morì per salvare due bambini che stavano annegando. Ultimo mese per gli studenti prima della fine della scuola e della maturità, i consigli per battere l'ansia e superare gli esami. Eccoci, sentiamo anche i titoli del TG1. L'ONU all'Italia, alcuni immigrati respinti hanno diritto di asilo, riammetteteli, Roma chiede un vertice europeo. Berlusconi, barconi di immigrati gestiti dalla criminalità, sicurezza, governo chiede la fiducia, il PD, così si viola il voto segreto. Il Papa sulla spianata delle moschee al muro del pianto, Gerusalemme sia città aperta, per il TG1 la pace è possibile. Firmato il decreto, 20 aree per realizzare le case che ospiteranno 15.000 sfollati, da giovedì via ai lavori. Palermo, permesso speciale per i due clandestini che hanno bloccato il folle col martello, raccontano, nessuno interveniva. Ferrari, addio alla Formula 1 nel 2010 se non cambiano le regole decise dalla Federazione Internazionale. Bene, fra poco anche i titoli della 7. Intanto andiamo a Como da Vincenzo. Buonasera. Buonasera a lei, Cipriani. Pronto? Sì, Cruciani, dica. Pronto? Sì, Vincenzo. Pronto? Mi sente? Non mi sente. Mario da Pescara. Salve. Dica. Pronto? Mi sente? La sento allora, Mario. Ok, senta. Lei, le ripeto due frasi che ha detto poc'anzi lei. Berlusconi non si rendeva conto. Parlava della società multietnica. Non so, è una battuta, non lo so, è un'interpretazione. Parecchi giorni che lo dice. Di Pietro Voltagabbana per aver cambiato idee sul referendum. Allora, io le chiedo, Berlusconi che adesso al referendum vota sì, andando contro una legge che lui ha promulgato, come lo etichetta lei? Fa i suoi interessi, ma non è una contraddizione. Lei per correttezza lo deve dire. Allora, guardi, deve dire Berlusconi si contraddice molto spesso. In questo caso. Lei è troppo giustificativo con Berlusconi. Mario, troppo. Mi scusi, le sto dicendo un'altra cosa. No, ho detto semplicemente. Di parlare. Ma lei mi sta chiedendo una cosa. Mi ha chiesto come definirebbe Berlusconi. Allora io le rispondo, poi la lascio continuare. Non si preoccupi. Allora lei mi ha chiesto una cosa. Io le dico, Berlusconi si contraddice decine di volte. Questa è la premessa, dunque non mi attacchi su questo perché lo dico e da questo punto di vista non sono attaccabile. Lei lo sta dicendo da ieri che Berlusconi non si rendeva neanche conto, quindi non sì, è ma che adesso sto dire... parlando di un altro, non mischiamo gli argomenti, sono cose diverse, parliamo della legge elettorale. Io non so, Berlusconi si rendeva conto o non si rendeva conto di aver parlato di società multietnica e di cosa fosse la società multietnica. Lo scrive per esempio oggi Antonio Polito sul Riformista, che non mi pare un berlusconiano di ferro. In ogni caso, sulla legge elettorale Berlusconi sarà contraddetto pure 200 volte. Vogliamo andare a rintracciare le sue posizioni nel 94, eccetera, eccetera. Dire adesso sì al referendum, dopo aver approvato la legge che c'è adesso, non è una particolare contraddizione. È una contraddizione avere raccolto le firme, cosa che Berlusconi non ha fatto, e poi dire votare no. Almeno su questo non c'è una contraddizione in Berlusconi, almeno su questo. Poi ce ne saranno altre 200.000, ma non su questo, abbia pazienza. Ma mi fa parlare o no? Dica, dica, Mario. Parlare. Dica. Lei, questa è una cosa che indigna la gente. Lei lo indigna deve dire tutti i giorni. Sì, lei ma che cosa? Che abbiamo che uno cosa? Che ha votato una legge e che adesso ci sta facendo andare al referendum dicendo di votare contro. Ma la veramente sua legge. Berlusconi non l'ha promosso il referendum. Qualcun altro lei sta facendo andare al referendum. Lei, allora ma... lei lo ripeto. Lei deve dire che adesso stiamo andando al referendum e Berlusconi, la cui legge la promulgò, adesso ci chiede di abbatterla. Ma ci chiede, dice che forse voterà sì. Ci chiede di cambiare la legge elettorale, voler cambiare una legge elettorale non è un dramma. Ma ho capito, ma non è un dramma voler cambiare la legge elettorale, cioè, no, mi scusi. La legge che ha fatto lui, lei deve dire queste cose chiare. Sì, e ma poi Mario, mi scusi, a noi non mi vuole mettere in bocca delle cose che non penso, mi scusi, abbia pazienza, io dico quello che voglio, non dico quello che vuole lei. Mi scusi, Berlusconi. Deve dire la verità, non no, ma la verità lei ce l'ha in mano, io non ce l'ho in mano, io ho molti dubbi, lei invece pensa di avere la verità su Berlusconi e su qualsiasi altra cosa. Io ho detto semplicemente una cosa, Berlusconi è uno di quelli che ha fatto approvare questa legge elettorale, su questo non c'è dubbio, lei ha ragione. Adesso forse, non si sa, vuole fare una campagna elettorale per modificarla perché la cosa andrebbe a favore del PDL. Vuole che glielo dica più chiaro? Dico sì. Poi dopodiché io non ci trovo una contraddizione, anche perché il referendum non l'ha promosso Berlusconi, l'hanno promosso altri, tra cui c'erano anche degli esponenti del PDL, ma non l'ha promosso Berlusconi il referendum. L'avesse promosso Berlusconi per cambiare una legge che ha fatto lo stesso Berlusconi, questa sì che sarebbe una contraddizione. Non c'è dubbio. Se mi fa parlare, posso anche dire ancora qualcos'altro? Dica. Allora, lei usa un tono volutamente dissacratorio tutte le volte che lei si trova a parlare di Di Pietro, Travaglio, Santoro, li Oddio usa mio. Con toni enfatici, come a dire sentite cosa dicono questa volta adesso. Ma guardi, e cambia proprio espressione di tono. Vabbè, ma questo dire, siamo nel campo dell'interpretazione. Faccio ma io faccio il conduttore faccio radiofonico, Mario, faccio il conduttore, non faccio il vigile urbano, abbia pazienza. Le non faccio l'esempio, quale vigile urbano? Lei quando ha parlato la settimana scorsa, che io chiamai pure e stette ad aspettarvi fino alle 9 di sera, non mi avete manco più richiamato. Mi scusi. Parlando della P2 e del piano rinascita. Ah, vogliamo parlare della P2 e del piano rinascita? No, vabbè. Lei disse, parlando di Di Pietro, lei disse, secondo me Di Pietro manco sa che cos'è il piano rinascita. E poi ma è una che battuta, Mario, faccio anche delle battute, le faccio su tutte le battute, non solo battuta, su Di Pietro. Aggiunte Mario, pure, è una battuta, ma non le faccio su tutte le battute, non solo su Di Pietro. Ma è il mio modo di condurre, le può piacere o non piacere, ma è così, cosa vuole che le dica? Mario, le faccio su tutte le battute, faccio le battute, allora? Aggiunse pure che era una battuta, però lei facendo così entra nel merito di quello che Di Pietro comunque dice, potrà sbagliare, ma Di Pietro fa questo ragionamento. Allora, c'è un signore che si chiama Berlusconi, ex tessera P2, ed è dato di fatto. Adesso lei vuole parlare della P2. C'è un piano rinascita, vuole parlare della P2. Faccia parlare. E parli della P2, cosa vuole che le dica? Parli della P2. No, le sto dicendo che deve entrare nel merito della discussione che dice Di Pietro. Allora, Di Pietro può anche sbagliare, però fa questo ragionamento. C'è un uomo ex tessera P2. C'è un piano rinascita che tutti quanti hanno saputo e letto quello che poteva significare. C'è un governo retto da questo personaggio che in alcuni, sembrerebbe, in alcuni procedimenti legislativi che questo governo sta mettendo in atto, sembra rispecchiare quello che diceva il piano rinascita. Allora diciamo, da ex uomo di legge Di Pietro fa 2 + 2 fa 4, secondo me questo qui è così. Ma lei la storia deve entrare nel merito. Mario, dire, no, Mario, Pietro, Mario, posso rispondere? Posso dire una cosa, Mario? Dopo che lei ha spiegato quello che voleva dire Di Pietro. Secondo me questo ragionamento, questo modo, queste cose che ha detto Di Pietro sono delle stronzate pazzesche. Questo è il mio ma la mia argomenti, però non ma non è, ma non c'è motivo. No, ma no. Non c'è motivo di argomentarle, abbia pazienza. Qualche volta non c'è motivo di argomentare. Non è vero che Berlusconi aveva la tessera P2. Ma che c'entra questo? Questo qua è questo. Lo può dire una cosa del genere? Ma che significa? Questo in un paese normale dovrebbe raccontato tutti i giorni. Ma lei lo sta dicendo? Che cosa vuole di più? Lo sta dicendo, sta facendo un comizio da mezz'ora. Cosa vuole di più in un paese libero? Questo è il paese libero, viva la libertà, c'è la libertà in Italia, abbia pazienza. Io sono 2 settimane che la cerco. E pazienza, che devo fare? Io ho altri impegni, Mario. Lei mi cercherà, io ho altri impegni. Sono occupato, sono una persona occupata, però mi scusi, Mario. Sono occupato perché meno male, meno male. Alle 8 di sera. Meno male, ognuno per conto proprio occupato. No, ma io la sento per fortuna. No, perché comunque la trasmissione mi piace. No, ecco, meno male, Mario, però mi scusi un attimo. Mi incazzo pure, però. Meno male, questo è il bello. Noi ci confrontiamo. Ci confrontiamo. Io la sto chiamando per questo motivo, mica perché... Però mi scusi un attimo, Mario. Io ho il diritto di dire che il collegamento che Di Pietro fa tra il piano della rinascita di P2, l'iscrizione di Berlusconi alla P2 e quello che sta succedendo adesso è una stronzata? Avrò il diritto di dirlo oppure no? Beh, o di pensarlo oppure no? Quel tono, però non usi un tono di ma ognuno, perché... ognuno ha il tono no, che se uno dovesse vederla, e mi spiace perché lei non mi sembra, se uno dovesse vederla mi sembrerebbe un Emilio Fede, che non è il caso. Ma capisce? Che c'entra Emilio Fede? Ti ricorda che quando Emilio Fede storpiava i nomi dei concorrenti di Berlusconi? Brodi, e faceva finta di non... Era quello che dicevo io, capisci? No, però Mario, mi scusi, guardi, io è vero che in alcuni casi, adesso parliamo seriamente, sono irriverente nei confronti di alcuni membri dell'opposizione. Questo io non lo nego, è vero, ma spesso, guardi, che succede la stessa cosa con l'opposizione. Abbiamo preso, con la maggioranza, abbiamo preso in giro per qualche puntata di seguito in maniera anche forte, avendone anche ricevendone anche delle proteste ufficiali, cioè il Italo Bocchino, ma anche lo stesso Berlusconi 10.000 volte, solo che ognuno poi sente quello che vuole. Non parlo di lei, Mario, che mi sembra una persona intelligente. Ognuno sente quello che vuole sentire, le proprie orecchie sentono quello che alcune cose non le sentono, altre cose invece le sentono e subito scatta la protesta. Eccoci qui e siamo sempre con il nostro ascoltatore da Pescara, Mario, con cui abbiamo avuto una vivace discussione e che spero possa rimanere con noi ancora per qualche minuto, Mario. Sì, dica. Se vuole, 20:14. No, sono arrivato a casa perché ho un'ora di macchina per tornare dal lavoro, quindi... Dove lavora? Sai che io sono molto legato alla città di Pescara, alla mia famiglia. Sì, la conosce? Sì, la conosco molto bene. La conosco io lavoro molto ad Ascoli, bene. Lavoro. Lavora ad Ascoli e però abita a Pescara? Però abito a Pescara, sì. Qui ogni giorno sono una settantina di chilometri. Sì, una settantina di chilometri, molto comodi, in autostrada, nonostante un po' di traffico, dei camion, eccetera, però è tutto molto comodo. A che punto siamo adesso? Dove è arrivato? No, adesso sono a casa proprio. Ah, è già arrivato sì, a casa? Sono a casa. Vabbè, insomma, sì, il traffico ogni tanto in quella zona, dipende dagli orari, eccetera. Esatto. Va bene, ascolti con me altri interventi, se ha tempo, così poi li commentiamo insieme. Paolo da Ancona, buonasera. Sì, buonasera dottor Cruciani, io mi trovo da Ancona, non sono di Ancona, ma mi trovo da Ancona. Senta, io sono raggiante di gioia perché non so come ringraziarla per aver finalmente non è rivolta a lei, invitato il professor Ricolfi. Che viene sistematicamente. Beh, finalmente non lo può dire a me perché esatto, fosse per me lo inviterei ogni sera, ma esatto, purtroppo il professor Ricolfi, ha altre cose da fare. Esatto, non è rivolto a lei. Io mi chiedevo, ma perché non c'è nessuno che inviti mai il professor Ricolfi? Forse perché scrive delle cose che a certi ambienti politici e culturali non fanno comodo. Non faccia dietrologia, Paolo. Io credo semplicemente che non è che tutti poi siano disponibili ad andare alle trasmissioni televisive o a fare le ospitate o ad essere anche il professor Ricolfi. Ogni tanto lo cerchiamo, ci dice che è occupato, eccetera, eccetera. Per cui insomma, non c'è sempre dietro qualche complotto, qualche mistero dietro il fatto che Ricolfi. Almeno io penso che sia così, né credo che a Ricolfi faccia piacere ogni volta andare in 10 trasmissioni, poi non so nemmeno se lo invitano, non lo so. Io prendo atto, diciamo che il 21 agosto il professor Ricolfi scrisse, contrariamente a ciò che si va predicando, che il tasso di criminalità di uno straniero è pari a 3-4 volte quello di un italiano per un immigrato irregolare, a 27-28 volte per un, di più per un immigrato irregolare. Immagini lei se questo può far piacere a certi ambienti. Comunque, al di là di ogni polemica, io volevo sottolineare le parole sacrosante dette dal professor Rigolfi, con il quale c'è una perfetta coincidenza di opinioni con quella che è il giudizio comune della gente che non ha una visibilità minima. Io faccio riferimento alla parte finale dell'intervento del professor Rigolfi, quando diceva che ovviamente l'impatto dell'immigrazione su un cittadino è diverso a seconda, e il giudizio che ne scaturisce è diverso a seconda dell'impatto che questo ha. Non c'è dubbio, perché diciamo chi è abituato a vivere in certi quartieri, chi è agiato, chi non testa ogni giorno la propria vita sostanzialmente a contatto con l'immigrazione clandestina o con l'immigrazione in generale, certo può permettersi di parlare di accoglienza, di principi più generali. Però c'è il traffico, torno tra un attimo. Crociere Royal Caribbean, un mondo dove tutto è possibile, vi presenta Strade in diretta. Andiamo subito a Milano, dove sulla linea metropolitana 1 rossa la circolazione dei treni è interrotta tra le stazioni di Pasteur e Gambara. È attivo un servizio sostitutivo di superficie con una bus navetta. Sulle autostrade invece il traffico sta rientrando nella normalità, restano le code e i rallentamenti sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli, ancora code attorno a Roma sul tratto urbano della 24 in entrambe le direzioni, code anche vicino a Firenze sull'Autosole tra l'innesto della Firenze Mare e Firenze Certosa verso Roma. Per ora è tutto, noi ci risentiamo fra 30 minuti. La Zanzara. Eccoci qui, gentili ascoltatori, di nuovo in diretta alle 20.18, 800 24 0024. Allora, siamo sempre in linea con Mario, Mario che è l'ascoltatore da Pescara. Volevo sapere, ha sentito questa, le faccio qualche domanda sulle cose del giorno così, Mario. Sì. Questa storia dell'Expo a me pare veramente incredibile, su questo credo che siamo d'accordo. Lucio Stanca, parlamentare, questa mattina, sì. Parlamentare del PDL, e già questo ci dovrebbe essere un'incompatibilità, anche se non c'è un'incompatibilità formale, lui dice di essere in grado di fare i due lavori. Un contratto da 300.000 euro più 150.000 sì, di premi. L'appartamento in centro. No, l'appartamento in centro, mica lui ha la sede. 150.000 di premi che lui vorrebbe, diciamo, sì, in qualche modo sicuri, non vincolati ad un risultato, anche se poi sa i risultati per l'Expo è difficile valutarli. E poi la sede in centro invece che in periferia gratis, cioè in centro costa un milione di euro all'anno, cosa che non è, insomma, non sono bruscolini. E in periferia sede a Quarto Giaro gratis. Che dice lei? No, io le voglio solo dire una cosa. Dove lavoro io, che è una grossa multinazionale, un mio collega l'anno scorso, un ingegnere 38enne, per non aver raggiunto certi obiettivi, sta fuori. Tranquillamente. Lei pensa che sia giusto o sbagliato? Non è che io, allora, personalmente io penso che sia sbagliato, però purtroppo questa è la realtà, che anche il signor Stanca dovrebbe subire, nel senso che lui non vuol dire con o senza risultati, questo le voglio dire io, perché noi comunque nella vita reale queste cose già le subiamo, tranquillamente e senza che nessuno magari si scandalizzi o trovi qualche cosa da dire o abbia un sussulto di dignità, per usare un termine. Ho capito. Però è così. Andiamo a Roma, Maurizio, buonasera. Mario, resti con me, Maurizio. Buonasera, dottor Cogliani. Stasera non vorrei essere fra quegli ascoltatori che la fanno irritare, però volevo dirle che sono rimasto molto deluso da lei, in questo senso, cioè dal suo entusiasmo mostrato per quel battibecco che c'è stato tra Guzzanti e Sgarbi. Secondo me quello è un esempio veramente di televisione spazzatura. E non lo so, ma perché lei è così entusiasta? Io non sono entusiasta, mi scusi. Io, tra l'altro, la trasmissione di venerdì scorso, oggi è martedì, e potevamo mandarlo ieri. Ho risentito con una certa attenzione, con una certa calma oggi quello che è successo. Perché ieri non ho avuto tempo di sentirlo bene. Entusiasta del fatto che qualche volta in un programma televisivo esca fuori l'animo esca fuori qualcosa di vero, ecco, perché non è costruito, glielo assicuro, perché come sa conosco guardi, quella trasmissione, conosco il conduttore, non è costruito, cioè non è uno scontro costruito a tavolino, e non è detto che invitando Sgarbi c'è per forza lo show. Sono stato ospite in una trasmissione sempre sulla 7 dove c'era anche Sgarbi e non mi pare che quella sera ci fosse un particolare casino provocato da Sgarbi, però ripeto, si parlava naturalmente del fatto che Guzzanti, non una cosa che tocca, come dire, gli animi e soprattutto le tasche dei cittadini, del fatto che Guzzanti adesso fa l'anti-berlusconiano, e Guzzanti dice per la questione di Putin, Sgarbi parlava invece della figlia. Insomma, il motivo era questo. Detto sì. Questo, poi sono uscite fuori delle cose vere, delle cose di sangue, delle cose di... Guardi, io non è che discuto su chi potesse aver ragione. Io discuto sul fatto che queste cose entusiasmino degli telespettatori dal palato piuttosto grossolano. Cioè, io mi sento molto a disagio. Penso, ma lei nel suo salotto di casa si vedrebbe a discutere con un suo... antagonista con la bava alla bocca sovrapponendo le voci? Cioè, questo modo di discutere è veramente ripugnante, penso. No, però, e scusi, se lei ma... che è una persona che io stimo e che però non mostra un minimo di critica, anche insomma il conduttore sarà suo amico, però secondo me ha fatto male il conduttore. Ma non è questione di essere amici. Deve mettere... Com'è? No, ma non è questione di essere amici, Maurizio. Io però, scusi, io non sono il paladino del politicamente corretto anche in televisione. Io penso che qualche volta la discussione, quando naturalmente non è creata artificialmente, quando non è costruita apposta, la discussione possa anche essere una discussione sanguigna, dura, feroce. Due persone si possono sovrapporre, certo la cosa non deve durare per l'eternità, non deve durare 20 minuti di seguito, altrimenti non si capisce più nulla. Cioè, lo scontro che è fatto anche di stai zitto, eccetera, e qualche volta anche di parolacce, di insulti, tra virgolette. Maurizio, però io non sono qui per darle sicurezza su come io concepisco i talk show televisivi. Dico semplicemente che forse insulto è una parola sbagliata. Dico semplicemente che alzare ogni tanto la voce, una discussione che abbia, naturalmente che non duri 20 minuti, che duri qualche secondo, qualche minuto, arrabbiarsi, esplodere, fa parte della vita, succede a noi ogni giorno, perché non deve accadere in televisione? Quello che siccome succede sempre, anche a lei succederà di alzare la voce, no? Anche a lei succederà di arrabbiarsi parlando, allora perché invece in un confronto televisivo questo non può accadere? Ogni tanto, naturalmente, per qualche minuto, che questo accada. Senta, per strada accadono tante cose brutte, però uno dà un giudizio e dice queste sono cose brutte. Io quello che per cui rimango meravigliato è che lei non abbia speso una parola per dire questo è uno schifo, cioè questo modo di discutere spazzatura. Mi scusi, ecco, Maurizio, perché non lo penso? Perché penso che quando un confronto del genere, naturalmente che non duri, ripeto, 20 minuti, ma che duri qualche minuto, sia frutto di qualcosa di spontaneo, penso che faccia parte della vita di ogni giorno, e anche la televisione deve rappresentare, come la radio eccetera, deve rappresentare la vita di ogni giorno. Per cui se Sgarbi alza la voce e vuole spiegare perché Guzzanti è diventato anti-berlusconiano, e Guzzanti a un certo punto si arrabbia dicendo fammi parlare, è la stessa cosa che succede in un litigio tra moglie e marito, tra due amici, in cui uno non fa parlare l'altro e quello si arrabbia perché pensa di perché vuole dire la sua. Insomma, succede ogni giorno e non vedo perché non possa succedere in televisione. Perché se io adesso mando a quel paese qualcuno, dura una frazione di secondo, eppure non è una cosa bella, e io do il giudizio, dico guarda quant'è maleducato quello, guarda che modo di discutere a quello. Mi scusi, cioè, non è però, la durata, ma io è non il modo. Ho capito, Maurizio, infatti la conclusione di quel litigio è forse una conclusione con quando finisce a insulti, bugiardo, eccetera, eccetera. Vabbè, infatti è quello che dicevo, però io avrei gradito, vista la considerazione che ho di lei, che lei avesse detto, ma guardate che modo di discutere questi due che dovrebbero essere persone colte, persone due, e invece quando alla fine esce fuori quello che è veramente, perché non è possibile che uno dia lì, secondo me, nonostante il conduttore sia suo amico, secondo me il conduttore ci godeva perché capiva che questo scontro faceva aumentare l'audience, probabilmente, perché questo è il modo di fare, la televisione spazzatura è anche questa. Maurizio, non ero presente, non so, penso che alla fine non gli dispiacesse, però ha tentato di chiudere a un certo punto quando la cosa era arrivata a un punto di non ritorno. La ringrazio molto. Mario, cosa ne pensa di questa vicenda? No, concordo con lei, Cruciani, concordo con lei, pienamente d'accordo, perché ogni tanto si può alzare la voce anche in televisione. Sì, non bisogna mettere la testa sotto la sabbia senza far finta che nel contesto insomma, certe cose possono accadere, è chiaro. Vincenzo da Como era l'ascoltatore. Mario, vada pure, vada a casa. Grazie. 20:27, giustamente l'ascoltatore vuole andare via, noi lo tratteniamo, magari vuole andare a cena con la moglie o con la famiglia. Vincenzo, dopo un viaggio da Ascoli a Pescara, e siamo con Vincenzo da Como, eccoci qui. Buonasera Cruciani, buonasera, finalmente riusciamo a rimetterci in contatto. Prego. Pronto? Dunque, innanzitutto voglio dire che ho sentito Ricolfi prima e devo dire la verità che ascoltando Ricolfi mi ricredo riguardo gli uomini di sinistra, qualcuno è anche pensante, sono di cosa uomo di destra e Ricolfi mi sembra un gran cervello pensante. Sì, adesso lei ha già catalogato Ricolfi come uomo di sinistra. A me queste categorie, queste caselle dove si mettono le persone. No, ha ragione. Non voglio avere ragione, dica pure. No. Allora, è una persona, si chiama Luca Ricolfi e pensa delle cose, non è che è un uomo di sinistra, di centrosinistra. Mi piace molto il suo intervento, insomma, la verità. Invece io ho chiamato per la questione del Grispo, perché sto seguendo, essendo un comasco, sì, certo. Seguo abbastanza vicino, poi conosco molto bene gli attori della situazione, perché sia Lucio Stanca che Leonardo Carioni sono due comaschi e io, per ragioni di politica, come ho fatto politica anch'io fino a poco tempo fa, li conosco molto bene proprio dal punto di vista politico. Sì, che mi vuole dire? Mi sembra che stiano facendo una pantomima ormai da un anno e due mesi riguardo questa faccenda qui, tutti, perché prima hanno cominciato con la storia del Consiglio di amministrazione, riuscivano a mettersi d'accordo. Sì. Adesso che il Consiglio di amministrazione riescono a mettersi d'accordo su. Allora, l'Expo lo vogliono fare o non lo vogliono fare? Guardi, la domanda è assolutamente pertinente e le do una risposta, la mia risposta, seguendo un po' le cose milanesi, tra un attimo, se lei ha pazienza, perché abbiamo l'interruzione della borsa, o interruzione necessaria, naturalmente, come sempre, la pubblicità. Poi parliamo un po' di questa vicenda perché è veramente incredibile. Le dico subito una cosa, secondo me il problema è che l'Expo nel 2015, se fosse nel 2011 o 12 ci saremmo sicuramente sbrigati prima. Lo sentiamo subito i titoli del TG2 e poi torniamo con voi. Berlusconi interviene sulle polemiche per il respingimento dei clandestini e dice sui barconi ci sono persone reclutate dal crimine. L'ONU chiede di riammettere i respinti. Il Papa chiede che Gerusalemme diventi la città della pace, Benedetto XVI nei luoghi sacri di islamici ed ebrei, visita la moschea di Omar e prega al muro del pianto. Due francesi residenti in Belgio arrestati in Italia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono accusati di essere capi europei di Al-Qaeda, progettavano un attentato a Parigi. Ieri hanno bloccato il folle armato di martello che alla stazione di Palermo ha ridotto in fin di vita una coppia di anziani. Ora i due nigeriani clandestini avranno il permesso di soggiorno. La Ferrari annuncia che il prossimo anno non parteciperà alla Formula 1, la rinuncia per protestare contro le nuove regole imposte dalla Federazione. Va bene, questo è un titolo che hanno tutti i telegiornali. Torniamo con il nostro ascoltatore da Como che ci voleva parlare, ci stava parlando dell'Expo, Vincenzo. Allora, sì, infatti. La vogliono fare o no? Io credo di sì, naturalmente non è questo il punto. Il fatto che l'Expo sia nel 2015... Ha fatto trascorrere questo un anno e più nel nulla sostanzialmente per motivi di poltrone, insomma, per cercare la quadra sulla, sulle poltrone basta. Sulle poltrone basta, sì. No, infatti, questa è la cosa vergognosa. Ma tra le altre cose, siccome lo sappiamo tutti che Lucio Stanca non ha nessuna intenzione di fare la di della società, della Soge, ma... Beh, questo no, io lo dico perché lo sanno tutti, non è una questione, non sto dicendo, non sto svelando nessun segreto. Sì. Sanno tutti che lui aveva altre aspirazioni, che era aspirazioni di governo, legittime, perché per carità tutto legittime. Dunque non aveva intenzione, non che assolutamente, non aveva, magari adesso gli dovrà venire la voglia, però, perché... Ma secondo me ancora questa voglia non ce l'ha tutta, insomma. No, ma guardi, perché... lo dico, non l'ha tutta. No, ma io sono sicuro che considera questa cosa una mezza grana, e comunque non è quello che voleva fare. Detto questo, tenta di ottenere il massimo da questa situazione, giustamente, legittimo, e dunque un certo stipendio legato a dei premi che però in realtà non si possono giudicare molto bene, perché come si fa a dire i risultati? Da che dipendono i risultati? Anche questo è vero, eh? Decidiamo lo stipendio a prescindere dai risultati, perché il risultato dell'Expo quale può essere? Non riesco nemmeno a capirlo, no? Perché giustamente Stanca dice: beh, alcune cose non dipendono da me. Da fare, perché lo stipendio già le viene dato e quindi giustamente lo prende. Poi c'è un premio per gli obiettivi raggiunti. Obiettivi che sono stati ben individuati, non è che sono obiettivi. Sì, d'accordo, però giustamente da questo punto di vista Stanca dice: beh, insomma, non è che dipende solo da me, però il raggiungimento degli obiettivi. Che ci sia una clausola che dica a un certo punto che gli obiettivi, anche se non vengono raggiunti per cause non sue, per carità, è giusto che a un certo punto venga riconosciuto il premio. Sì, però insomma si apre, è tutto piuttosto aleatorio. Si aprirebbe naturalmente un contenzioso, no? È colpa mia, è colpa tua. Insomma, queste cose secondo me. In realtà è stato un escamotage questo qua dei risultati, per non dire ti do uno stipendio da 450.000 euro subito, cioè per presentare all'opinione pubblica una cosa un po' diversa. In realtà, ripeto, c'è stata una discussione anche sui soldi, poi c'è la questione dell'incompatibilità, cioè può fare il deputato o il senatore, adesso non so, credo che sia deputato, uno che è anche amministratore delegato di una società importante come quella che gestisce un avvenimento come l'Expo? Secondo me no. Secondo lui sì, lo ha detto in più di un'occasione, che bisogna dire. La ringrazio. Vincenzo, dove andiamo? Antonio da Taranto, buonasera. Buonasera Cruciani, vorrei così portare su una piccola riflessione. Lei ha intervistato prima il giornalista Facci sulla lettera che Mentana ha scritto alla Mediaset eccetera, ma si è accorto come ha concluso Facci? Dicendo che lui non può esprimersi sull'azienda perché i tribunali adesso condannano anche... No, non ha detto questo. Licenziano. Mi sembra no. Di sì. No, ma lei ha capito, male, Antonio. Non ha detto questo. Ha detto devo stare attento, certo. Poi in realtà non è stato attento per niente. Ha detto certo. Io dovrei anche stare attento a come parlo perché comunque lavoro in quell'azienda. Certo. Non è un ragionamento folle, perché se uno lavora in un'azienda, senz'altro, parla di quell'azienda deve stare attento a come parla. Mi sembra un ragionamento che tutti noi possiamo fare, no? Perfetto, sacrosanto. Volevo semplicemente dire, ma siamo ancora convinti che il giornalismo in Italia è libero? Dal momento in cui siamo stati ad assistere a insomma, sentenze di tribunali sui vari politici italiani, dove le nostre televisioni pagate chiaramente, al posto di fare approfondimento sull'argomento, ci hanno proposto, non so, risvegli dal coma o accidenti vari. Non lo so, non mi sembra una i risvegli dal coma o le trasmissioni sui reality o altre cose, non mi sembrano in contraddizione con un'informazione libera. La ringrazio. Ottavio da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Devo intervenire sul discorso di Mentana, sulla sua intervista. Dica. Io quello che non riesco a capire è come ci si stupisca che non sia così, cioè quello che ha detto, che il Mediaset è un comitato elettorale. Mi stupisco anche che lui se ne sia accorto solo adesso dopo tanti anni. Basterebbe andare a guardare le trasmissioni elettorali del canale Mediaset del 94 quando Berlusconi decise di scendere in politica. Sì, con Vianello, lei dice Vianello, Fede, eccetera, eccetera. Cioè soubrette, presentatori, attori, attrici che intervenivano nelle loro trasmissioni nelle loro trasmissioni per propagandare, per promuovere le elezioni di Berlusconi agli ascoltatori. Inoltre poi tutti gli spot a piesso spinto, cioè Mentana parla di un'altra cosa, Mentana non parla in generale di Mediaset, parla dell'informazione giornalistica di Mediaset, dunque un gruppo che è diventato un comitato elettorale, parla però in particolare dell'informazione giornalistica di Mediaset. Detto questo. L'informazione, diciamo che dopo quel periodo è dovuta intervenire la legge sulla par condicio, perché l'opposizione era nelle condizioni che per poter partecipare alla campagna elettorale sulle reti Mediaset avrebbe finanziato il partito avverso, cioè questa situazione è veramente assurda e paradossale. Dunque, con la legge a par condicio hanno dovuto limitarsi, ma naturalmente il taglio delle trasmissioni è proseguito. Vorrei ricordarle la campagna elettorale 2008, cioè l'anno scorso, sulla sicurezza. Ogni telegiornale aprivano con la cronaca nera e aumentando la percezione di insicurezza negli italiani, cosa che a detta di molti osservatori è stato uno degli argomenti che ha consentito Berlusconi. Dunque anche quando Mentana conduceva le trasmissioni e ne ha fatte tante sulla sicurezza durante la campagna elettorale del 2008, partecipava a questo gioco secondo lei? Lui non faceva gestire il telegiornale. No, ho capito, quando faceva le trasmissioni, infatti ho detto, quando Mentana conduceva trasmissioni sulla sicurezza e ne ha fatte tante, secondo la sua teoria partecipava a questa sorta di comitato elettorale. Involontariamente partecipava a questo gioco. Non è proibito fare trasmissioni parlando della sicurezza. Ho capito il suo pensiero, Ottavio. La ringrazio, devo dare spazio ad altri ascoltatori perché siamo davvero in conclusione. Lucillo da Verona, buonasera. Sì, buonasera. Volevo intervenire anch'io sulla questione Mentana. Sì, se lei abbassa la radio possiamo sentire tutti con più scusi. Facilità. Bene, bene. Perché io rimango stupito però che noi cittadini che chiamiamo la sua televisione, io l'ascolto tutte le sere, la radio, e ci siamo accorti che e quando telefoniamo su questo lei si arrabbia molto, anche perché dice ma come, sono liberi di scrivere, di fare e di dire quello che vogliono questi giornalisti. Invece poi scopriamo, e l'ha detto anche Facci poi apertamente, insomma, che è un comitato elettorale che non può dire. Scusi, le due cose sono un po' diverse. Dire come Mentana, ed è come fa Mentana, ed è però vuol dire, oggetto di discussione, non è che sia una certezza giuridica, non è che la Cassazione. Dire che un gruppo è diventato un comitato elettorale e dire che in Italia non c'è libertà d'opinione, non c'è libertà di stampa, sono due cose completamente diverse, non è la stessa, non coincidono le cose, no? Noi cittadini ci siamo accorti che è un comitato elettorale, sia la carta che la TV. Sia la carta che la TV. Quale sarebbe la carta? Il comitato elettorale della carta quale sarebbe? No, il comitato elettorale della carta sarebbero che il giornale Libero e tutti i giornali quotidiani delle città, guardi, io sono di Verona, l'Arena, il Mattino di Padova. Il Mattino di Padova veramente mi risulta... Mi risulta col centrodestra. Vabbè, Lucillo, non mi risulta che il Mattino di Padova sia schierato col centrodestra, ma comunque insomma mi sembra un discorso per quello che riguarda la stampa piuttosto vago. Lo riprendiamo domani se vuole. Ci sentiamo 18:30 domani, La Zanzara. Ciao. La Zanzara.